Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Ciao coach Dan Peterson. Ciao Carlo, amici sportivi, buongiorno. Sai chi ho qui con me? Chi? Un commissioner. Ahia. Mi piace chiamarlo così, commissioner della Lega 2, Marco Buonamico. Ciao Marco. Ciao, buongiorno coach e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Marco Buonamico, il mio grande campione, la Virtus Bologna. Mi ha vinto lo scudetto nel 76 a Varese e non dimentico mai queste cose. Il Marin, poi è venuto anche a darti una mano a Milano per una stagione sola, 79-80, uno di quei billi, di quella banda Bassotti, insomma. Esatto. Ragazzi, Siena non è l'Inter, non è il Milan, non è la Roma, non è il Napoli. Siena è Siena, che passa, che va avanti in Europa. Ha un allenatore che, dopo aver battuto l'FS Pilsen ieri sera 88-76, altra grande partita, dice Simone Pianigiani: cercare l'impresa è un'attitudine mentale, un modo di vita. Abbiamo fatto un altro capolavoro, coach. Guarda, innanzitutto complimenti a Siena per questo, veramente non un'impresa, adesso hanno fatto veramente, sono rimasti in partita cominciando a vincere proprio a Belgrado, poi rivinto con Belgrado a Siena, queste vittorie qua, adesso sono matematicamente avanti, vanno contro l'Olympiacos, quindi ha detto lui un capolavoro, un'impresa, io dico più capolavoro, veramente. Non solamente la partita di ieri, che è stata molto più complicata di quanto pensavo, più due all'intervallo, tanto per dire, con qualche patema di anima, eccetera, però tutto il complesso delle cose che dopo le prime due partite sembravano eliminate, certo, dall'Eurolega, invece no. Erano in fondo al fosso e sono riusciti a risalire. Ci voleva anche per la pallacanestro italiana, Marcone. Assolutamente, in questo momento è grande ossigeno e Siena è la nostra bella faccia in Europa. Coach, il tuo diario che teniamo ogni settimana dice, Monsieur de la Palisse, che la settimana dopo una vittoria è più facile della settimana dopo una sconfitta. A dir poco, ok, quindi noi abbiamo vinto una partita, chi l'ha visto in televisione, c'è proprio non una partita bella, soffrendo fino all'ultimo supplementare in trasferta a Brindisi alle 11:45, cioè, quindi con diverse complicazioni e non giocando bene, ma però pescando proprio Lynn Greer, che ha fatto tutti i nostri 8 punti nel supplementare, e tu pensa che io l'ho avuto lui fuori 2 dei 5 minuti del supplementare, quindi meno male è andato dentro lui e ci ha risolto la situazione. Marco, come la vedi questa avventura del coach? Non abbiamo ancora parlato di te. Ma guarda, intanto con grande affetto, ma non solo, perché Dan ha saputo riportare il grande entusiasmo a Milano, ma non dimentichiamoci che è il coach, è lui allena, non è che è lì solamente a mettere a posto le figurine. Anche se l'altro giorno ha detto: ogni tanto devo fare anche la cheerleader. Beh, spero di no. per motivare i giocatori. Prima di salutare il coach, volevo una sua battuta, ma anche una tua, poi ne parliamo anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24, naturalmente, come sempre. Il terremoto americano. Terremoto americano che ci ha lasciato anche questi suoni, sentiamo. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. At 6'8 from Syracuse, number 7. Carmelo Coming Home, uno, Carmelo Anthony, I'm Living New York, l'altro, il gallo, Danilo Gallinari. Alla fine è andata così, caro coach. Io non ci credevo fino all'ultimo, perché tutti dicevano Gallinari andrà a Denver, il cambio di Carmelo Anthony e altri giocatori coinvolti, ovviamente, però io avevo dei grossi dubbi su questo qui, però io dico una cosa non nel senso polemico, perché dicono tutti in America che la mano di James Dolan, il proprietario di Knickerbockers, lui voleva il nome, voleva Carmelo Anthony, e secondo me è stato consigliato da Isaiah Thomas, che anche se lui è fuori di gioco, che è allenatore del Florida International, ha avuto grande input con Dolan: fai quello che deve fare per prendere Carmelo Anthony. Anthony a New York, ha vinto la prima partita, lui ha fatto 27 più 10 rimbalzi, con un po' di fatica contro Milwaukee, vediamo come va, perché la squadra manca sempre un playmaker di riserva, sempre un vero pivot, sempre una panchina lunga, mancano diverse cose. Mike D'Antoni ha un bel lavoro da fare ancora, la squadra è molto più corta di quella che era prima. Grazie coach, sentiamo venerdì. Grazie. Ciao Marco, ciao, coach. Ciao a tutti. Danilo ha debuttato invece nella notte, ha battuto i Celtics, non ha giocato bene, 4 punti in 19 minuti, tirando molto male, 1 su 6, e poi ha scritto su Twitter: great game, great win, flying to Portland, super. Poi ha scritto un altro messaggio su Twitter: l'aereo è un po' diverso da quello di New York, ma le belli stesse, per chi conosce il dialetto lombardo, si decolla. Cosa dici, Marco? Beh, consiglierei un'altra canzone di un vecchio cantatore americano, Jim Croce, che dice New York is not my home. io credo che il Gallo farà molto bene, è motivato, sì, perché vuole dimostrare, ha un ottimo allenatore, George Karl. Penso che, passato il primo periodo di ambientamento, che ci vorrà, perché c'è grande differenza tra i due posti, però penso che farà bene. Adesso andiamo col traffico e poi cominciamo a parlare, arriviamo un po' a bomba, di queste Final Four di Lega 2. Si assegna il primo trofeo stagionale anche lì, sempre in Piemonte, non a Torino come la Serie A, ma a Novara. E tra poco ne parliamo con Marco Bonamico e magari con voi. 800 24 00 24, traffico. Palla spicchi. Dunque torniamo qui con me, Marco Bonamico, 800 24 00 24, numero verde, e ho vari messaggi, 349 238 6666, di lacrime. Ma dai, quando ho sentito la notizia volevo piangere, ho comprato il biglietto per vedere il Gallo venerdì 4 contro Cleveland, ancora in settembre, ma va. Scrive Stefano da Verona, anche questo è un bel aspetto, eh? Beh sì, in effetti ci vorrebbe la possibilità di essere rimborsati. Però insomma, anche Carmelo Anthony, diciamo che non è malvagio, dai. Se Denver insisteva un altro po', i Knicks gli davano pure il Madison Square Garden. Daniele da Venezia. Alberto da Udine invece vuole intervenire, così Fabio dalla Spezia. Alberto, buongiorno. Buongiorno signor Carlo, e un saluto anche a Marco Bonamico, commissionario della Lega. Un mandi da Udine. Mandi. Ecco. Una considerazione per quanto riguarda Siena. Io vorrei fare intanto i complimenti perché è d'obbligo, ma una considerazione. Io avrei voluto vederla vincere anche senza il caso Lorbeck. Mi spiego. Da quando c'è stato il caso Lorbeck, sì, inevitabilmente Siena ha preso un attimino il sopravvento. Una vostra opinione a riguardo, e anche siccome Pianizzani aveva detto dopo le due sconfitte che al 99% siamo fuori, e giustamente oggi ha detto anche che è contento di essersi ripreso da questa, sì, cosa, non sarebbe più giusto dire giochiamoci le partite? Perché noi diciamo a tutte le altre squadre che sono penalizzate quando giocano con Siena, cioè partono già sconfitte. Siena può vincere, cioè nel senso ha le potenzialità per vincere, sì, che vada per vincere, tutto lì. Sì, per vincere l'Eurolega non lo so, sarebbe un'impresa grandissima, perché c'è chi spende più soldi, chi è più attrezzato, eccetera eccetera. Siena ha una grande organizzazione. Quanto al caso Lorbe, che io penso che abbia avuto maggiore incidenza su una delle notizie brutte di questo periodo, cioè l'addio della famiglia Benetton, che non su direttamente, quantomeno sull'inizio della striscia vincente di Siena. Tu cosa ne dici? Ma concordo con te, Carlo, anche perché non dimentichiamo che oltre alla Benetton c'erano altre squadre comunque potenzialmente di quel livello, come Roma eccetera. Sicuro. Virtus Bologna, insomma. Sicuro. Marco, Final Four a Novara, l'anno del Piemonte, prima dicevo Torino-Novara, l'anno del Piemonte che il basket di alto livello, c'è ovviamente Casale Monferrato che sarà lì alle Final Four, che è una delle candidate per il grande salto e per riportare magari anche il basket della Serie A in Piemonte, però due città che per motivi diversi, per strade diverse, la pallacanestro l'hanno persa. È vero, l'hanno persa, ma c'è grande passione, come hanno dimostrato le Final Eight a Torino e come mi auguro riusciremo a dimostrare noi a Novara. Novara ha un impianto splendido, è un impianto che però non aveva il campo da basket tracciato, e questo l'abbiamo fatto noi, è una cosa che lasceremo alla città di Novara, sperando che sia utilizzato quanto più possibile. Che torni la pallacanestro, non solo. Beh, io dico, intanto utilizziamolo. Intanto vediamo il campo, poi anche i palloni, diamo anche i palloni. Lasciate poi, li lasciate lì, sì, i palloni. Sabato Venezia Veroli, Casale Imola, che squadre sono? Come vedi questa Final Four, innanzitutto dal punto di vista tecnico? Ma guarda, c'è da dire questo, Veroli e Venezia hanno giocato poco tempo fa, c'è stata in casa di Venezia, ha vinto Veroli, quindi Venezia arriverà sicuramente molto molto carica per questa partita, viene anche dalla sconfitta di Iesi, e quindi ancora di più, squadra di grande classe, tra giocatori americani di super, ma anche tanti italiani, squadra lunghissima. Veroli è in un ottimo stato di forma, anche se anche loro 2 settimane fa sono inciampate proprio in Iesi, che in questo momento è in grande forma. Grandi protagonisti, Trent Whiting a Imola, grandi, sì, americani come sempre, cioè quello che ha il mio amico Attilio Caia a Rimini, che mi sembra una potenziale superstar. Roderick lo vogliono tutti, questo ragazzo giocava in Austria e non ha neanche finito il college, è una storia personale difficile, però un ragazzo fantastico, vola, è uno di quelli che volano e insomma lo cercano in tanti. È un valore aggiunto di questo campionato dal punto di vista spettacolare. Ma sì, quando ogni tanto fa delle giocate al piano superiore, ma non è solo quello, perché vedremo una partita, anche l'altra partita interessante è Casale Imola, anche se Imola ha perso un pezzo importante, che è Ibi, che il contratto è stato rescisso proprio ieri, però Imola è una squadra che combatte tutte le partite, e quindi saranno in trincea e non sarà facile per Casale. Stavo parlando del mio amico Attilio Cari, ieri mi ha chiamato, abbiamo fatto 2 chiacchiere, mi diceva, insomma, questo almeno è un campionato incerto, al piano di sopra sai già come finisce, o quantomeno ci sono forti segnali per capire come finirà. Questo non so, intanto il campionato di Serie A mi sembra quest'anno uno dei più belli degli ultimi anni, comunque, il fatto anche che Caserta batta la prima classifica Siena è un segnale comunque di omogeneità, di un certo equilibrio, di equilibrio. Beh, il nostro, la Lega 2, è sempre stata così, è un campionato difficile da leggere, difficile guardare nella palla di cristallo e sapere cosa c'è dentro, magari pochi si aspettavano, nessuno, Reggio Emilia in difficoltà, anche se adesso sta operando per uscirne, e intanto per parlare dell'amico di Udine che ha chiamato prima, forse nessuno si aspettava una Snyder o così in alto, però Snyder sta giocando una pallacanestro fantastica. Si è partita fortissimo, poi ha avuto una flessione, adesso si è... Ha avuto una flessione quando si è fatto male Harrison, questo cambia qualcosa. Bisogna dirlo. Sentiamo Paolo, provincia di Treviso, 800240024, buongiorno. Buongiorno e buongiorno anche al signor buon amico. Dica. Un qualche settimana fa io ho telefonato in trasmissione, davate le pagelle al campionato e ho detto io vorrei la pagella di Treviso. Uno degli argomenti per cui chiamo è sapere se invece passate 3-4 settimane come sta andando invece la vicenda della cessione, se ci sono novità, se qualcuno si è fatto avanti, se la situazione è un po' più chiara. E una considerazione sul discorso Gallinari. Capisco il tifo, capisco tutto, però vista da italiani capisco anche che ci si possa dispiacere che Gallinari sia via da New York e sia andato a Denver, sì, come tra virgolette merce di scambio per una qualcosa che viene stato più pregiato. Però ho anche le parole che tante volte i bravi, secondo me, telecronisti di Sky dicono che in fin dei conti gli americani, quando vanno al Palazzo dello Sport, hanno la loro ottica di vedere la partita, vogliono lo spettacolo, vogliono la stella, e quindi secondo me la stragrande maggioranza del Madison è ampiamente soddisfatta dello scambio che è stato portato a termine. Io questa è la percezione che io ho, anche sentendo la presentazione della squadra. Sì, d'altra parte, insomma, Carmelo Anthony è una superstar, Chauncey Billups è comunque un grande giocatore, New York aveva bisogno di mettere qualcosa in vetrina, io credo. Danilo Gallinari è un giocatore di pallacanestro. Marco? Totale. Totale. Non l'abbiamo ancora visto, secondo me, al massimo del suo rendimento. È chiaro che va in una squadra forse non perfetta per le sue caratteristiche, magari dovrà prendersi più responsabilità e magari più egoista. Sì, forzare un po' la sua natura e essere più egoista. Quanto a Benetton, io non saprei se ci sono notizie fresche, mi sembra ancora molto presto. Sappiamo bene come comunque la famiglia Benetton abbia dato largo preavviso, no? Lascerà le operazioni cestistiche e quelle pallavolistiche nell'estate del 2012. Ti volevo chiedere invece come sta andando il campionato a livello mediatico, perché mi sembra ci siano numeri importanti il campionato di Lega 2, a livello di pubblico. Poi parliamo anche a livello spettacolare, però intanto questi dati mi interessano, Marco. Guarda, pubblico siamo in leggera crescita, questo è un dato comunque positivo. Per quanto riguarda l'audience televisiva, devo dire complice anche lo switch off, quindi il fatto che adesso sì, è tutto sul digitale terrestre, magari fosse tutto merito nostro, però i numeri sono per molte partite doppi rispetto a quelli dell'anno scorso. Tanta roba. Sì, tanta roba, poi adesso aspettiamo anche i dati oltre a quelli di Rai, di Sport Italia, che saranno resi pubblici alla fine del mese, sì. Ma e anche da lì mi aspetto buone cose. Prospettive da questo punto di vista? Beh, ci sarà il nostro bando per i diritti televisivi e io mi auguro di riuscire a continuare quella che è un po' la politica dei due forni, mi sembra una soluzione migliore. Sì, avere due grandi network che ci seguono, punterei anche molto sulla radio, chissà se qualcuno mi ascolta in questo momento, internet, perché stiamo facendo un buon lavoro anche su internet con partite gratuite, sì. Quindi insomma direi che da quel punto di vista lì siamo messi abbastanza bene. Ecco, quello che mi auguro per le nostre società è di riuscire a trasformare tutta questa esposizione che abbiamo anche in sponsor per le nostre società, credo lo meritino. A proposito di sponsor di economia e di finanza, siamo al momento della borsa, subito dopo Enzo dalla provincia di Lucca, 800 24 00 24 per parlare con noi, soprattutto con Marco Bonamico, a dopo. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre con noi The Commissioner, Marco Bonamico, c'è anche Enzo dalla provincia di Lucca che era già in linea, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, un saluto particolare a Marco Bonamico, che ricordo come atleta e uomo esemplare. Io ho 50 anni, seguo il basket da un po' di tempo, diciamo. Sì. E veramente è un raro esempio, che purtroppo ce ne sono molto pochi di questi tempi, di atleti come è stato lui. Aspettate, io faccio un intervento velocissimo in due direzioni che sicuramente non piacerà molto. Primo, Danilo Gallinari. Danilo Gallinari, abbiamo modo di vedere, cose, ha completamente fallito a New York, prima di tutto perché è andato negli Stati Uniti troppo presto, al punto che io ritengo che oggi non sarebbe titolare neanche in Europa nelle migliori due o tre squadre. Ha dimostrato di non avere il tiro da fuori per spaccare la retina nell'NBA e di non avere un gioco sotto canestro e soprattutto una difesa insufficiente. New York, che aveva puntato molto su di lui, l'ha ceduto perché principalmente lui ha fallito, probabilmente erano troppe le aspettative. Secondo intervento lo faccio proprio di cuore, sono un tifoso di Milano, critico la gestione cervellotica del manager Prodi, che sarà in altri settori ma nel basket non ha dimostrato di capire molto. Del resto, voglio dire, hanno spacciato Milano inizio campionato come l'outsider che poteva combattere contro Siena, quando nessuno del quintetto base di Siena sarebbe potuto entrare nei primi 5 dello starting 5 senese. Tra le altre cose, hanno varato un allenatore come Buchi, che con una squadra nettamente inferiore a quella che ha il nostro grande coach attualmente ha fatto due finali perdendo contro quella Popò di corazzata. In ultimo intervento telegrafico anche sul coach, verso il quale io ho un grande affetto. È stato un gravissimo errore puntare sul coach, che è assolutamente inadeguato al basket moderno. Del resto anche la sua politica attuale di puntare su un numero di giocatori molto molto limitato non giocherà al futuro a Milano, che si ritroverà puntualmente a dover ricominciare per formare una squadra completa come a Siena. Siena ha 10, 11, 12 giocatori. Il coach Peterson, che io stimo e ammiro, punterà su 6-7 giocatori, sì, e tra altre cose anche Melli l'ha già fatto andare via. Melli, perché deve costruire. Allora, io non so, grazie Enzo, ma non sono particolarmente d'accordo, anzi non sono d'accordo su nessuno di questi punti, dei punti suddetti, perché dire che Gallinari ha fallito a New York mi sembra abbastanza eretico, no? È chiaro che è un rookie, è chiaro che è molto giovane, possiamo discutere sulla opportunità di andare negli Stati Uniti così presto, magari si potevano fare un paio di anni di esperienza in squadre di altissimo livello, di livello d'Eurolega, con allenatori top, magari si andava a vedere un po' più pronti. Però su tutto il resto non penso si possa dire che Gallinari abbia fallito a New York, considerato che il primo anno non l'ha neanche giocato. Quanto a Milano, insomma, secondo me è stata invece una grande idea quella di tornare, quella di promuovere il ritorno di Coach Peterson. Poi è innegabile che vari errori sono stati fatti nella gestione di questa squadra e nel corso degli anni, e che, un po' come per la Juventus, insomma, il livello di costruzione sia un po' indietro rispetto ai soldi spesi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, commissioner. Non ci penso neanche. Ci pensi neanche. No, io tornerei invece al discorso, perché voglio capire bene che succede a Novara, al discorso Final Four. Sì, intanto devo fare una precisazione, perché Audin era Williams che si è infortunato. Natural. Ex Bigevano. Esatto, ex Bigevano, grande giocatore. Perché mi guardi così? No, perché visto che sei di Pavia, so l'amore che vi lega. Vabbè, andiamo avanti. Beh, le cose da ricordare sono queste. Se avete tempo e voglia, durante la finale, andate a vedere il sito della Lega 2. Certo, dove la vedo la finale? Beh, intanto la vedi su Rai Sport, la vedi dal sabato alle 6. Andremo lunghissimi, perché finiremo alle 11, quasi alle 11 di sera, e ci sarà tanto tanto basket. E poi la domenica alle 8:40. C'è il tuo amico Franco Lauro? Cioè, ci sarà Franco Lauro, e purtroppo solo il sabato perché la domenica sarà impegnato con il 90° minuto, sì. Ma insomma sarà degnamente sostituito. E come anche l'anno scorso, ci saranno le votazioni per il miglior giocatore, per il miglior italiano e per il miglior difensore. Votazioni che potrà fare il pubblico attraverso la Lega Popolare. Sì, perché noi siamo una Lega Popolare. Una Lega Popolare in tutti i sensi. Quindi voterà il pubblico e deciderà il pubblico chi sarà il migliore. Dopo l'inno, Dopo l'inno nazionale, che sarà cantato e suonato dalla fanfara dei bersaglieri. Quindi vi faremo entrare di corsa. Sì. No, mi dicevi prima che ci sono anche ingressi di favore. Sì, gli under 16 entreranno gratis. Chi ha meno di 16 anni? Meno di 16 anni. Quindi io non pago. Con parrucca e mamma, no. Però, non, ecco, quindi sarà così. E poi ci saranno sconti per tutti quelli che danno qualcosa allo sport a Novara, quindi tutti gli abbonati dell'Asis, del Novara Calcio e dell'Hockey Club Novara. Francesco Caserta, buongiorno. Ciao, un abbraccio a Marin, buon amico. Glielo do io per interposta persona. Ci ha fatto piangere tanto quando veniva a Caserta, mannaggia. Vabbè, lasciamo perdere. Dovevate comprarmi. Dovevate comprarmi. Marco, tu te ne vai a giocare a Napoli, ma dai, santi Dio, che ti sei perso. Vabbè, che teniamo dell'agnello che non era male, comunque, esatto. Dai. No, solo per dissentire con quello che ha detto Marco poc'anzi, riguardo che c'era tanto pubblico la Final Eight di Torino, ma insomma, io ho visto dei voti clamorosi, veramente, che il cuore mi si stringeva. E poi ho visto la finale su Sport Italia della Coppa del Re di Spagna, lasciamo perdere l'ambiente, ma palazzetto stracolmo, il Re di Spagna che ha premiato. Sì, anni e anni luce dietro. Era anche Real Barcellona, quindi non. Il nostro movimento, insomma, è un po', deve recuperare tanto, perché a parte Siena poi c'è il baratro, proprio veramente è dura. Speriamo che di vedere, mi si stringe il cuore di nuovo Milano e Roma, per me Bologna, perché insomma, se no un'angoscia sempre Siena, e che cavolo. Non dico Caserta, perché noi siamo la squadraccia, possiamo vincere e perdere con chiunque. Ma quale squadraccia? Avete appena battuto la suddetta Siena, vabbè. Una partita così, tra la Coppa Italia da una parte e la partita determinante con l'FS Pilsen dall'altra, quindi un momento anche strano, una coincidenza fortunata anche per Caserta, che però è stata bravissima. Quanto al resto, Marco, cosa diresti? È vero che c'è poco pubblico, abbiamo tanto da recuperare. È vero certamente che la pallacanestro italiana sente l'assenza così prolungata delle metropoli e della stessa Bologna, città che è tua sede, che però più un momento un po' di depressione, al di là della fortitudo. Mi sembra che anche il vulcano di Sabatini, quel vulcano di Sabatini, sia un po' spento, non spento, però un po' addolcito quasi. Beh, ma sai, voglio dire, tutti i grandi attori hanno sempre una spalla. Adesso lasciamo perdere chi è l'attore e la spalla, ma a Bologna c'erano due grandi club, adesso ce n'è uno solo, quindi è chiaro che l'interesse, quell'interesse che come c'era a Livorno, in altri posti, un pochino cala. Però i numeri, come ti dicevo, sono in aumento negli spettatori, sia per la Serie A che per noi. Quindi questo è un segnale importante, perché la cosa più importante è che la gente vada al palazzetto a vedere le partite, perché questo è il sintomo di popolarità dello sport. Certo, vada al palazzetto a vedere le partite e le partite siano fruibili anche in TV, come per la Lega 2 succede in maniera piuttosto agevole. Per la Serie A invece il discorso è ancora molto aperto. Sì, è chiaro, anche loro hanno fatto il loro bando, credo, insomma non spetta a me certamente pensare a quello che farà la Lega Serie A, però credo che si stiano muovendo bene e che cercheranno anche una visibilità in chiaro. Il nostro basket ha scontato un po' questo, senza nulla togliere al grande lavoro che ha fatto e sta facendo Sky, però noi siamo ancora uno sport in crescita, abbiamo bisogno di far vedere quanto più possibile le nostre partite. Lega 2 per quanto possibile lo sta facendo con grandi sforzi, senza incassare cifre enormi, anzi piccolissime, però credo che insomma far vedere il basket a tutti sia importante. Come vedi il futuro immediato della Lega 2, ma anche della Serie B, insomma con la riforma che è dietro l'angolo, cosa succederà l'anno prossimo? Ma guarda, ci saranno 8 squadre in meno nella prossima dilettanti, questo vorrà dire che ci saranno più giocatori italiani disponibili per la Lega 2. Mi auguro che, e sono certo, che le nostre società sapranno pescare bene ed elevare il livello dei giocatori italiani. Questo è importante. Dobbiamo anche trovare il modo, questo assieme alla federazione, di far sì che questo basket costi un po' meno. Perché diciamo che in questo momento, tra tasse, premi NAS, che sono i premi per la produzione dei giocatori, contributi, le nostre società hanno un carico forse troppo gravoso. Professor Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Stavo leggendo sms relativi a un intervento precedente di Enzo dalla provincia di Lucca, che diceva: Gallinari ha fallito tutto nell'NBA, New York ha fatto bene a mandarlo via. C'è chi scrive: ottimista Enzo, chissà cosa pensa della crisi mondiale. Oppure Omar da Bologna: ma siamo su scherzi a parte, l'ultimo ascoltatore ci crede veramente? Non lo so, io volevo un parere del professor Tranquillo sullo scambio dell'inverno, io direi, sul terremoto americano. Ma intanto sarei molto molto attento a non utilizzare i nostri occhiali o le nostre categorie per analizzare uno scambio NBA. Che abbia fallito o no è una possibilità teorica per me, non pratica, ma è una possibilità, ma certo non lo sancisce il fatto che sia stato ceduto all'interno di uno scambio che ha tutte altre ragioni. Se entriamo all'interno dello scambio in quanto tale, non solo con tutto l'affetto rispetto al fatto che dentro ci sia Danilo, credo che sia una cosa che io non avrei fatto, perché non ritengo che una squadra che ha come opzioni principali, o come due delle tre opzioni principali, Anthony e Stoudemire, non Anthony o Stoudemire, ma Anthony e Stoudemire, possa vincere il titolo. Però questo è un pronostico e, come tutti i pronostici, va poi vagliato dal campo, e soprattutto bisogna sapere chi sarà la terza opzione, se sarà Darren Williams, sarà Paul, sarà un altro, o peggio ancora se non sarà nessuno. Se non sarà nessuno è uno scambio disastroso, addirittura in prospettiva di provare a vincere un titolo. Chiudo velocemente: secondo me ci sono più possibilità di vincere il titolo con Paul, Stoudemire, Gallinari come opzioni 1, 2, 3, e non con Paul, Anthony, Stoudemire, posto che Anthony è ovviamente più forte di Danilo, se ne facciamo una questione di produzione, però non è necessario che i tre più forti siano il miglior mix di tre punte. No, ma poi soprattutto è calcio e non tennis, quindi Flavio, anche il dire Anthony è più forte di Danilo, ok, con la palla in mano, più realizzatore, può avere più talento, però stiamo parlando sempre di... stiamo parlando sempre di singoli giocatori, si tratta di capire se uno è funzionale a un progetto oppure no e qual è il progetto, quindi mi pare che possa essere anche letto in questi termini. Ci fermiamo per il traffico, Flavio tu sta lì, torniamo subito. Palla spicchi. E noi invece torniamo subito con Marco Bonamico, che mi stava dicendo una cosa abbastanza un altro punto importante di questa vicenda, no Marco? Vicenda Gallinari. No, dicevo che mi sembra strano, Isaiah Thomas, grandissimo giocatore, ma come dirigente, diciamo allenatore, non è che abbia avuto grande fortuna. Che miseria, i danni della grande del terremoto. Però, ecco, adesso, dopo di questo, ovviamente New York vincerà il titolo. Ma secondo me è abbastanza difficile, Flavio. No, anche perché rischia il prossimo che rischia è Mike D'Antoni. Sì, sì, il prossimo che rischia, perché non c'è dubbio. Flavio. Ma lì le questioni politiche relative ad Isaiah Thomas intanto sono incerte, perché nessuno di noi conosce quale sia la natura dei rapporti tra la proprietà, soprattutto James Dolan e Isaiah Thomas. Che ci siano è pacifico, che ci siano è anche sorprendente, per usare un aggettivo leggero. Il discorso rischia Mike D'Antoni è assolutamente corretto in termini di elucubrazione, di speculazione. Però poi bisogna anche vedere che piega prendono le cose, anche perché diciamo che arriva il Chris Paul o Deron Williams della situazione. Chris Paul, per esempio, soprattutto Chris Paul, ha senso in un sistema implementato da Mike D'Antoni o un sistema d'antoniano, se mi spiego. A quel punto, se tu vuoi un sistema d'antoniano e hai già Mike D'Antoni sotto contratto a 6 milioni all'anno, non so perché dovresti darlo via. Quindi di certo a me non sembra la via per costruire qualcosa. Di certo l'idea di costruzione di D'Antoni e di Walsh era diversa da questa, cioè prima prendiamo Anthony e poi vediamo che cosa ci costa, cosa comporta e che cosa significa, però poi non bisogna galoppare secondo me troppo e troppo presto con la fantasia, perché le cose possono prendere pieghe strane e più volte in passato l'hanno presa. Detto questo, riprendersi Thomas dopo tutto quello che ha fatto secondo me è un caso unico, non nello sport mondiale, nella vita mondiale. Cioè è come se gli uni avessero ripreso Attila. Possiamo fare altri paralleli, ma forse no. Non è il caso. Grazie Flavio, ci sentiamo domani. Ciao Flavio, un abbraccio. Grazie Flavio, tranquillo. E beh, insomma, se riprendo la Isaiah Thomas vale tutto, eh? Sì, sì, sì, non vale, c'è limite. Vale qualunque grande ritorno in qualunque settore. No, ma poi, insomma, tutti questi grandi giocatori dell'NBA, in caso di lockout, chissà, magari ne vedremo qualcuno da queste parti. Come no, vengono a giocare anche in Lega 2. Beh, noi se vogliono, per tenersi in forma... Porte aperte certo. In Lega 2. Marco, ti piace il rugby? Sì. Sì, mi piace molto. Quando è ben giocato è molto bello. Perché molto l'Italia non vince mai, secondo te? Non lo so questo, però devo dire che sono bravissimi dal punto di vista della comunicazione. Vero. Perché pur non vincendo stanno facendo grandi numeri, riempiono le pagine dei giornali, la gente li guarda in televisione. Devo dire che il rugby è uno sport appassionante comunque. Certo, e noi ne stiamo parlando, come sapete ogni venerdì in epoca di Sei Nazioni abbiamo qualche minuto per mettere in vetrina quale sarà il weekend del rugby italiano. Domani c'è Italia-Galles, ma c'è anche Inghilterra-Francia. Sentiamo Dario Ricci. Parola d'ordine, dimenticare Twickenham. Ci vorrà tutto l'amore del pubblico del Flaminio per spingere gli azzurri oltre il ricordo della batosta con l'Inghilterra e contro i dragoni gallesi, reduci dal successo di Murrayfield sulla Scozia. I precedenti parlano chiaro. Su 16 gare, 13 successi dei gallesi, che pure però a Roma sono caduti due volte, nel 2003 e nel 2007. E la voglia di riscatto è tanta, come testimonia Andrea Lo Cicero. La voglia di riscatto penso ci sia sempre stata da parte di tutti. Chiaramente dopo la partita contro l'Inghilterra ancora di più è venuta questa voglia o quasi ossessione di prendere il risultato. Io cerco di viverla in maniera diversa, cioè mi piacerebbe che iniziassimo a giocare e non pensare al risultato. Il risultato sicuramente sarà sempre una conseguenza di qualunque essa cosa tu faccia. Quindi noi in questo caso dobbiamo pensare solo a giocare. E poi sicuro, se giochiamo e difendiamo e facciamo tutto quello che dobbiamo fare, il risultato arriva senza problemi. Occhio poi all'aspetto disciplinare. I gallesi sono maestri a creare occasioni per i calci precisi di Hook o Stephen Jones. Ancora Lo Cicero. penso che sia un Galles sicuramente organizzato, con molte individualità che ogni tanto può cadere in qualche errore da parte loro, e quindi a favore di una squadra, e poi una squadra molto provocatrice, e aspettano soltanto che tu faccia il fallo, prenderne il vantaggio. Questo non dobbiamo permetterlo. Pronti a usare i muscoli, ma amanti anche del gioco a largo, il Galles di Warren Gatland non offre troppi punti di riferimento. Tommaso, benvenuti, tre quarti del Benetton Treviso. Sono una squadra sicuramente molto fisica, ma anche molto veloce sul piano di vista atletico. Giocano bene, hanno delle buone individualità, soprattutto nei tre quarti, anche in mischia. Niente, sarà una partita secondo me molto simile a quella con l'Inghilterra. Cercheranno di sfruttare tutte le opportunità, tutte le palle veloci, insomma, metteranno ritmo. Sabato poi, sempre a Twickenham, saranno spettacolo ed emozioni per la sfida tra Inghilterra e Francia, vera finale anticipata del torneo. The chips are down really in terms of we're both 2-2 and only one team can continue being undefeated in the tournament. So it's a huge. Sono una squadra forte, ben preparata, che sta crescendo durante il torneo e che ha superato le sconfitte nei test match di novembre. Sarà una sfida difficile, dura, assicura Toby Flood, il nuovo astro dei bianchi d'Inghilterra, che ha ormai relegato in panca il mito Johnny Wilkinson. On a tenu en partie compte évidemment du jeu pratiqué par les Anglais en ce moment, à savoir un jeu peut-être moins structuré, moins fait. Abbiamo studiato il nuovo rugby che stanno proponendo gli inglesi, un gioco più moderno e offensivo, non più fatto solo di possesso e occupazione del terreno, ma soprattutto di ritmo. Siamo pronti, risponde il CT transalpino Mark Lievremont. Domenica chiusura della terza giornata con Scozia e Irlanda. Scozzesi che vogliono riscattare il KO casalingo contro il Galles di 15 giorni fa, ma i verdi di Dublino, che rilanciano gara titolare, puntano al successo che li terrebbe in corsa per la vittoria del torneo e anche per aggiudicarsi la triplice corona, trofeo che spetta alla nazione britannica capace di battere tutte le altre tre. E sempre domenica in campo anche le azzurre dell'Italia femminile, che affrontano alla Spezia le gallesi. Dopo i KO con Irlanda e Inghilterra, anche le ragazze di Andrea di Giandomenico inseguono la prima vittoria, dopo aver vinto in Galles, per la prima volta nella storia, proprio l'anno scorso. Cari Parma, sponsor della Nazionale Italiana Rugby. Vi ha presentato Speciale 6 Nazioni. E ovviamente torniamo a parlarne domani pomeriggio dalle 17 alle 18, come sapete siamo insieme, e su 6 Nazioni ovviamente torneremo, così ce l'ha presentato Dario Ricci. Io volevo finire le discussioni con Marco Bonamico su un altro punto, All-Star Game che torna in Serie A, come sapete, forum di assago nazionale contro i migliori americani. In Lega 2 ti piacerebbe avere un All-Star Game? Beh, in teoria sì, però dovremmo trovare una formula diversa, non quella degli stranieri che giocano contro la nazionale, ovviamente, dovremmo trovare un'altra e magari ci studieremo, vedremo se qualcosa che potrebbe anche coinvolgere di più i giovani della Lega 2, diciamo gli under 24, insomma, cercando di dargli un po' di vetrina. A proposito di vetrina, ti devo dire che avremo la gara delle schiacciate anche a Novara, e il presidente della giuria sarà il signor Carlton Myers. Uno che con le schiacciate ha una discreta dimestichezza, soprattutto da giovanissimo. Chi è il favorito con le schiacciate, secondo te? Il suscitato Rodri, non lo so, perché Rodri purtroppo non potrà essere presente, ma abbiamo qualche sorpresa. Mi parlano molto bene di Nosse di Iesi, di Jeff Trepanier di Verona. Insomma, ci sarà da divertirsi. Come, avete pronte le macchine da mettere sotto canestro? Beh, noi le macchine le abbiamo, ma adesso non vorrei dire, ma un conto è se salti la macchina passando sul cofano e un altro se passi sopra il tetto. E poi non dimentichiamoci che dei primi a fare questo è stato un giocatore europeo. Marco Buonamico. No. Dunque adesso tutti a Novara, Final Four di Coppa Italia, Final Four di Coppa di Lega, sabato e domenica Venezia Veroli, Casale Monferrato, Imola, tanto per cominciare, 18 e 20.45 di sabato e poi la finale 20.45 di domenica. Marco Buonamico, grazie. Grazie a te, Carlo, e arrivederci. Io ringrazio anche Fabrizio Pungetti, oltre a Franco Piantaneda in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani alle 5.